cosa provate, cosa sentite di fronte al fatto di dover commentare il campionato più taroccato del mondo? Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Farà piacere un bel mazzo di rose e anche il rumore che fa il cellofane, ma una birra fa gola di più in questo giorno appiccicoso di caucciù. Oh, quanta strada nei miei sandali, quante ne avrà fatta barba. Perché le perde Morata che faccio all'interno dell'area di rigore, attenzione! Ci pensa l'arbitro e fa il calcio di rigore! E i francesi ci rispettano, che le palle ancora gli girano. E tu mi fai, dobbiamo andare al cinema e al cinema. Rischia Kralovec, la rincorsa, parte Vidal, rete! Vidal, Juventus in vantaggio! Ai francesi che si incazzano, e i giornali che svolazzano, c'è un po' di vento, appaia la campagna. Guarda che c'è un falso storico, perché sono monegaschi e non francesi. No, poi soprattutto si sono arrabbiati i portoghesi, cioè Jardim, gli italiani, cioè Raggi. I francesi stamattina, devo dirti la verità, l'hanno presa anche in maniera sportiva. Hanno detto rigore severo. Sì, severo. Questo scrive l'Equipe. Tu sai perfettamente, mentre saluto il professor Alessandro Marcotulli in redazione con Daniele Bonamici e Filippo Aureggi in regia, Pardo arriva tra poco, perché non arriva perché è nella città del popolo, Wolfsburg, dove domani racconterà dopo il Napoli. Tu sai qual è il più antico luogo comune per cui la Juventus vince tutto in Italia e non in Europa? Ma certo, perché in Italia è aiutata dagli arbitri e appena mette fuori il naso dalle Alpi, da Chiasso in su, invece ha il problema di non poter godere degli aiutini. Però insomma, magari poi ne parliamo, questo rigore forse si poteva non fischiare, ma non è così scandaloso. Se tu prendi il regolamento in mano, quei due o tre che lo conoscono insieme a Rizzoli e Collina, ti potrebbero anche spiegare, intanto che è una decisione difficilissima da prendere, su un contropiede di 40 metri, un lancio, l'arbitro completamente in ritardo, l'assistente anche perché non è in linea, si vede nell'ultimo frame in cui compare la sua testa. E poi è tutto da dimostrare che non fosse calcio di rigore, non tanto l'incrocio tra le gambe che evidentemente è fuori dall'area e diciamo che così l'abbiamo chiusa alle 14:10:44 secondi, ma quello che accade dopo con il gomito che potrebbe configurare una continuazione di fallo a cavallo della linea dell'area di rigore. Quindi secondo me si poteva non dare quel calcio di rigore, però sia chiaro che secondo me oggi parlare di furto della Juventus è completamente astorico. No, chiedo scusa, voi di tutti i convocati, Carlo Genta, siete i soliti ipocriti, il vostro è giornalismo spazzatura e basta, vedete sempre favori arbitrali e per la Juventus, dovreste vergognarvi, guardate che Morata, andate a vedervi la moviola, Morata stava a 4 metri all'interno dell'area di rigore. Scusate, chi è? Ah, caro arbitro Pavel Kralovec, bravo, complimenti, ottimo arbitraggio. Hai ricevuto però il mio regalino? E così adesso sono incazzati tutti, anche gli juventini. 8-0-0. Non era quello vero. 0-0-24, vero. No, ci segue la domenica, lo sa, era non era quello vero ma identico. Sì, tu dici avrebbe detto le stesse cose. Io non dico niente. No, perché tu sei di quelli che vuole necessariamente vedere. Allora, discutiamo anche della designazione di un arbitro cieco, amico di Pavel Nedved, o comunque insomma che ha in Pavel Nedved uno dei miti del suo calcio, del suo sport. Dai, per favore, siamo seri. Sì, poi discutiamo anche della designazione di un arbitro serbo a dirigere il derby di Madrid, per cui si sono arrabbiati pure gli spagnoli, cioè gli spagnoli sono arrabbiati quelli dell'Atletico perché hanno abbastanza massacrato Mandzukic. Questo mi piace, non che abbiano massacrato Mandzukic, ma mi piace che anche altrove parlino di arbitri esattamente come facciamo noi, così smettiamo di dire che siamo gli unici. No, comunque, al di fuori della, cioè, dell'ironia, per la Juventus è un risultato importantissimo. È il risultato perfetto, secondo me, di una gara da sufficienza e non di più. Non vedo un Monaco che riesce a battere la Juventus con due gol di scarto, mentre c'è chi scrive: Gianni, tifosi monegaschi inferociti, fitto lancio di cambiale dalle tribune. Sì, immagino. No, ma ripeto, guardate che l'hanno presa anche in maniera accettabile, quelli del Monaco. Si è arrabbiato l'allenatore, si è arrabbiato un pochino Raggi, che però come hai visto rideva davanti alle telecamere, sì. Tutto molto vattato, tutto, certo, tutto molto da Champions. Di caviale dalle tribune, e al ritorno sarà così. Maurizio Grosetti, buongiorno. Bonifici. Eccolo qua, buongiorno cari, eccoci. Così sono tutti incazzati, li ho fatti arrabbiare tutti. No, ma anche Grosetti, leggevo su Twitter, ha scritto una cosa che non è piaciuta a nessuno, né agli juventini né agli anti-juventini. sì, beh, ho un talento naturale. Diciamo. Cosa? Ma no, lui avrebbe scritto che il rigore non c'era, ma comunque era un aiutino meritato. Ma sai qui è la solita scusa, che sembra una scusa per il giornalista che non è nel contempo anche titolista. Effettivamente quel titolo è un po' ambiguo, nel senso che sembra che la Juve meritasse un rigore non dato o un aiutino per il fatto che aveva giocato bene. Ecco, non è così. Quello che volevo esprimere è un po' diverso, cioè che la Juve non ha vinto la partita perché ha rubato un rigore, ma che come dire, ha meritato il risultato con tutto sommato un atteggiamento adulto, controllato, concentrato, che prescinde da quell'episodio, che si poteva dare come, certo, non dare, un rigore non scandaloso, ma nemmeno clamoroso, poi rivisto molte volte, ma non sono le molte volte che abbiamo negli occhi e nella testa noi inviati allo stadio, dove viva Dio non lavoriamo davanti alla televisione nel salotto di casa, ma vediamo quando c'è il monitor se va bene una volta il replay, quando non c'è il monitor nemmeno quello, e quindi voglio dire, vediamo un po' meglio dell'arbitro, ma insomma più o meno. E in tempo reale nessuno di noi si era accorto che il fallo fosse cominciato fuori dall'area, mentre tutti avevamo avuto il forte sospetto che se due giocatori guardano il cielo da dove arriva la palla non si può parlare di volontarietà. Dopodiché non esistono gli aiutini meritati, perché altrimenti, come ha commentato qualche attento mio follower, allora bisognerebbe introdurre la vittoria ai punti, oppure che ne so, ogni tre occasioni mancate allora si devono dare un rigore dubbio. Non è questo, tant'è che ho anche ironizzato nel mio servizio dicendo che il rigore l'ha segnato un cieco che si chiama Pavel, quindi voglio dire, se avessi voluto fare il pezzo Gobbo avrei scritto diversamente. Poi Gobbo non sono, sono stato, ma in un tempo in cui non mi ricordo neanche più di esserlo. Sei caduto in prescrizione, come sei Gobbo, guarito. Sei prescritto, no. Prescritto, no, facciamo la battuta, sei guarito. No, era un bambino che ti faceva la Juve ed era molto appassionato, poi sono diventato grande, ho conosciuto il calcio e anche una parte di un'altra Juve e ho smesso. Berto Vladimiro, fai il bravo e dopo vi lamentate dei tifosi violenti quando siete voi che accendete i fuochi. Sì. Ma quali fuochi? Sì. Ma facciamo i bravi. Maurizio, aspetta un attimo che ho il traffico. Se avete caviale, lanciatelo anche qui. Anche qui caviale. Traffico. Il calcio in Italia è sempre vecchio, è sempre la stessa cosa, è sempre la stessa cosa. Tutti convocati. Una partita importante, un risultato importante per noi. Sapevamo che era oggi una partita durissima con Monaco, una squadra che hanno fatto pochissimo gol, però l'importante è che abbiamo vinto e mancano 90 minuti che dobbiamo essere più cattivi e più concentrati di là per andare avanti. Questo era Arturo Vidal, che non è più Re Artù, ma ieri ha segnato un gol d'oro. È arrivato Maurizio Grosetti, c'era da prima, Giovanni Capuano pure, ma è arrivato Pierluigi Pardo per uno dei suoi esercizi preferiti. Dalla città del popolo, Wolfsburg, giusto Pierluigi? Sì. Sei lì? Come va? Molto bene, molto bene. Sono già tutti arrabbiatissimi. Uno dei tuoi. Ma no, così. Tanto per. No, uno dei tuoi esercizi magari preferiti, cioè la moviola prescritta. Scrive un ascoltatore: perché non discutiamo anche il gol in fuorigioco di Mijatovic, che ha permesso al Real di vincere la finale con la Juve? Ecco, discutiamone. Certo. Questo è uno dei tuoi esercizi preferiti, no? Sì, no, la moviola appunto prescritta. Postuma prescritta. Vediamo qual è il tempo di prescrizione della moviola. Qual è, Maurizio Crosetti, il tempo di prescrizione della moviola? Andiamo in manicomio. Un quarto d'ora, dai. Un quarto d'ora? Vabbè, allora è finito. Quindi, ieri sera alle 23 si poteva d'ora. Chiudere. Esatto. No, Pierluigi, sai, no, risultato importante quello della Juventus, Monaco arrabbiato il giusto, un po' di sana ironia e la chiudiamo qui con una Juventus che non vedo precipitare al Principato, insomma. No, io vedo, ho visto la Juve discreta, non eccezionale onestamente, ma aspettavo di meno dal Monaco o forse di più dalla Juve, decidiamo come mi piace di più, sicuramente mi aspettavo una partita diversa nel suo sviluppo. Tu ieri avresti firmato l'1-0, io avrei firmato il 2-0 e devo dire che invece poi alla fine il 1-0 va benissimo come risultato, perché Monaco ha sperato il gol in almeno 2-3 circostanze e ha dimostrato di essere una squadra con tanta struttura e tanta solidità. Ho la sensazione che sia più forte o comunque più pericolosa quando può ripartire con la velocità dei suoi uomini piuttosto che quando deve imporre il gioco. Mi auguro insomma che questo gol pesi tanto e posso offrire alla Juve la possibilità di una partita morbida no, ma insomma di posso offrire degli spazi per far male e che possa essere quindi fra una settimana più semplice di come è stato ieri sera, che non è stato semplice per niente. Il rigore non c'era, che altro dobbiamo dire, era fuori area ed era secondo me già un rigorino di suo, quindi la combinazione fra il fatto che era un intervento abbastanza casuale e il fatto che fosse fuori area lo rende certamente agli occhi dei tifosi del Monaco o degli altri giuventini un episodio grave. Questo è E però, li aspettiamo tutti, senso, i tifosi del Monaco compresi, 800 24 00 24, ma certo che ci sentono, ma ci mancherebbe altro. No, Maurizio, la Juve ha fatto la partita che doveva fare, onestamente, secondo me, con qualche limite, disimpegni difensivi, gli attaccanti non brillanti, Pirlo che rientrava dopo 40 giorni si è visto, con qualche limite, ma con tanta pazienza. È vero, però il tipo di partita era quello, era anche di facile previsione, Allegri l'aveva detto, una rogna, un esercizio di pazienza. Quello che non era prevedibile forse è il numero e la percentuale un po' troppo alta di errori, ma errori non soltanto sotto porta, ci sono stati Tevez e Vidal soprattutto, ma anche nella misura dei passaggi, un po' di ansia c'era, lo ha rivelato Evra con grande stanchezza a fine partita. La Juve sentiva un po' questa pressione, è una Juve un pochino appannata in certi momenti e ci sta a metà aprile esserlo, ma è il momento in cui l'appannamento deve essere gestito perché ce l'hanno tutti e quindi la stanchezza non può diventare un argomento preponderante, non potrà esserlo sabato contro la Lazio, non potrà esserlo mercoledì prossimo a Monte Carlo, però insomma il risultato c'è e anche tutto sommato la saldezza nel controllare i momenti d'ansia, nei momenti difficili. Mi sembra che la Juve sia cresciuta in questo senso, mi sembra più adulta rispetto al passato, anche alla gestione di Conte, nella quale in Europa si procedeva molto per fiammate, no? Per folate, sì, per scatti, però poi alla fine si andava anche un po' nel panico quando c'erano i problemi. Ieri sera un po' di problemi ci sono stati, Buffon li ha risolti e il resto lo hanno fatto secondo me appunto la maturità, la consapevolezza di una squadra che comunque ha pescato l'avversario più debole. Buonissima squadra al Monaco, ma oggettivamente più debole e si è visto insomma, una Juve così ha portato a casa un buon risultato, una Juve così non basterà o non basterebbe in semifinale, questo è certo. Ma sei d'accordo, Maurizio, che forse va sottolineato il fatto che Allegri si stia rivelando un fattore positivo? Cioè lui è alla terza partita con la Juve, togliamo quelle del girone, quindi a eliminazione diretta ha azzeccato la lettura tattica della prima partita col Borussia Dortmund, quando tutti si aspettavano una Juve all'assalto, invece lui ne ha fatta una diversa, ha evidentemente centrato quella del ritorno. Ieri ha fatto una lettura perfetta e comunque quel momento di imbarazzo, di pressione, ne ha parlato anche lui ieri sera, è finito dopo un quarto d'ora 20 minuti quando è riuscito a spiegare ai suoi di non avere fretta. Mi sembra che Allegri oggi sia un valore aggiunto per la Juventus. Aggiungerei anche la partita cruciale del girone con l'Olympiacos. Certo, no, ma è un valore aggiunto dal primo giorno in cui ha cominciato a lavorare ed è riuscito a non mandare a quel paese quelli che gli sputavano sulla macchina intanto, e poi è un valore aggiunto perché è riuscito a dare più tranquillità a una squadra che era troppo un groviglio di nervi. era una squadra troppo uterina, senza offesa, anzi uno di questi tempi, usare questi aggettivi pericolosi, non vorrei che scatenare le vetro femministe sul web, nei giornali e online, quindi lo dico solo per, a livello di metafora, era una squadra però troppo di pancia, adesso è una squadra è molto di testa, la pancia serve per risolvere le situazioni, gli scatti, la fantasia, l'estro va benissimo, però serve ancora di più nelle coppe l'equilibrio nervoso, ecco, la Juve lo ha acquisito, prima non ce l'aveva tanto, credo dipenda molto dall'allenatore e anche tutto sommato dal carattere della diversità tra i due allenatori, quindi la Juve di Allegri assomiglia a Allegri come la Juve di Conte assomigliava a Conte nel bene e nel male, perché molto del bene della Juve di Conte la Juve di Allegri lo ha mantenuto, elaborato e se possibile anche perfezionato, perché altrimenti sembra si azzera anche la memoria. Il valore aggiunto però è indiscutibile. Grazie Maurizio, buon lavoro. Grazie a voi, ciao. Sei d'accordo Pierluigi con questa analisi? Sì, questa è chiaramente l'evoluzione del percorso di Conte, sono d'accordissimo. Credo che Allegri abbia portato un approccio più morbido in certe partite, una migliore gestione delle situazioni, anche qualche volta il tirare indietro la gamba, no? Il mettere il piede sul freno perché non ce n'è bisogno. Mentre la visione di Conte era una visione estrema, no? Curiosa, perché talebana. Detto questo, stiamo parlando di un allenatore che ha cambiato la storia della Juve, nessuno può sapere se, anzi, c'è fondato sospetto di pensare che Allegri oggi non avrebbe potuto fare questo lavoro se non ci fosse stato prima Conte, quindi assolutamente non è una diminuzio. Credo che però, abbiamo fatto spesso la metafora sacchi capello, credo che Allegri sia stato intelligente nell'innestare sulla esperienza precedente di questa squadra delle cose nuove, nel non imporre ma nel proporle basta, e dopo i primi due mesi appunto di pura conservazione del percorso contiano si sono viste anche tatticamente cose diverse, e mi sembra una squadra che adesso ha una grande possibilità davanti a sé, che è quella di quantomeno di arrivare in semifinale, di fare un passo alla volta e di gestire questo finale di stagione senza grandissimi patemi. Molto dipende anche da sabato, perché sabato è la partita che più scivolosa, diciamo, apertamente. Io non credo che ci siano problemi, no, anche ma se assolutamente la Juve dovesse perdere con la Lazio, però potrebbero esserci problemi emotivi, forse, la rimonta più partita, incredibile, no? Della storia, sì, del calcio mondiale, anche perché apre poi un periodo particolare dove c'è dopo la Lazio c'è il derby col Toro, poi se non sbaglio c'è la Fiorentina, in mezzo c'è il ritorno col Monaco, quindi deve succedere uno tsunami. Ma il discorso è esattamente questo: la Juve adesso ha un calendario complesso, nel senso che ha Torino, Fiorentina e Samp dopo la Lazio, quindi è chiaro che c'è un solo modo per non complicarsi la vita, cioè faticare, fare uno sforzo extra contro la Lazio, quindi riuscire a non perdere la partita contro la Lazio, e poi di questo stiamo parlando. Se la Juve pareggia già è assolutamente sicura del titolo, è il modo migliore per non dover poi fare un extra sforzo dopo e per doversi portare fastidi e fiatoni improvvisi proprio nel momento in cui devi essere più calmo. Quindi se riesci, se Allegri riesce a non perdere contro la Lazio, si assicura poi una gestione morbida. Se invece la Lazio dovesse fare il colpo, comunque in qualche modo ci darebbe un po' di pressione, poi che la Juve possa perderlo mi sembra veramente quindi siccome abbiamo tessuto le lodi di Allegri che ragiona con la testa e non con la pancia, sabato sera dobbiamo aspettarci una Juventus che non parta lancia in resta pensando di chiudere per fare la scena di quella che vince e ammazza definitivamente il campionato, magari ragiona di più, non ti dico che gioca per lo 0-0 Pier, anche se potrebbe farlo, però ci dobbiamo aspettare una Juve più prudente, quasi come quella che ci aveva annunciato alla vigilia della Juve col Monaco. Cioè magari vi annoierete, però questa è una partita che può anche finire 0-0 sicuramente, e a me va benissimo così. Allora ci fermiamo per la borsa, poi ci sono già ascoltatori, avremo un altro ospite perché insomma non vogliamo buttare troppa benzina sul fuoco. Luca Telese, state con noi. Questa vittoria dedico volentieri a Pier Mario Morosini e a Fabrizio Quattrocchi, che è sempre nel mio cuore. Seguiteci su Twitter @tutticonvocati. Convocati. No, l'unica cosa che è un po' un peccato è che qui le grandi aree fanno 17 metri, è solo questo. Questo è d'archivio, tu eh? Tu provochi, eh? Questo è d'archivio, Garcia. 17 che è 25 meno 8. Sì. 25 erano i metri dell'area di Mourinho. No, ecco, ricordi? Sì, me la ricordo. Pierluigi Pardo collegato con noi da Wolfsburg. Che partita ti aspetti domani? Ma ci sono segnali molto contrastanti, perché da un lato, vabbè, il Wolfsburg lo sappiamo è molto forte, ha entrato anche con l'Inter, ha dato il turno con una certa facilità, e però molto secondo me dipende dal Napoli. Io spero veramente di vedere un Napoli che scende in campo con l'atteggiamento giusto, da squadra matura, perché i colpi ce li ha. Francamente faccio fatica a pensare che non sia tra le favorite di questa Europa League. Per me sì, sono sì. Napoli, Wolfsburg e Siviglia. E penso che anche la Fiorentina possa far bene. Penso che Napoli abbia avuto un avversario non facile, dopo un'Europa League piuttosto semplice invece, con dei sorteggi molto tranquilli. Fino adesso questo è il primo vero test. Ma ripeto, dipende molto da Higuain, dipende molto dall'atteggiamento che ha la squadra. Anzi, Napoli è troppo morale. Guarda, io se tra le tre che hai citato dovessi sceglierne una, io mi piglierei proprio il Napoli. Cioè, come sì, divide squadra. Infatti, Roberto Milano, buongiorno. Eccolo. Roberto. Sì, sì, mi sentite? Sono sì. in linea? Sì, sì, dica. Buongiorno a voi. Prima di tutto, auguri al Napoli domani, ovviamente. Piccolo preambolo, sono interista di vecchissima data. Ieri sera, ho visto la partita con romagnoli juventinissimi, come qualche volta mi capita quando sono in viaggio. Per cui ovviamente ho tifato per la Juve nonostante il mio credo interista, però avrei da dire una roba: mi è sembrato talmente chiaro che il fallo fosse iniziato fuori area che non capisco perché il giornalista che ha parlato prima dicesse che non era poi così evidente. No, ma perché lo dice il regolamento? Guardate che ancora oggi, ancora in questo momento, su quel fallo non è tutto chiarissimo, nel senso che l'incrocio tra le due gambe avviene fuori dall'area di rigore. Non volevo mettermi a fare un discorso di questo tipo, semplicemente dico il rigore, il fallo è iniziato fuori, poi è proseguito dentro. A mio parere poteva anche essere rigore o no, ma questo ci sta. Vidal ha fatto un super gol, per cui alla fine la Juve ha meritato di vincere, ma era evidentissimo che l'inizio del fallo fosse fuori area. Non l'ho visto io solo da interista, e quindi sono stato forse l'ultimo, proprio perché ero a casa del Leone, no? L'ultimo a dire, ma mi è sembrato che fosse fuori area, tutti quanti lo hanno visto. Quindi voglio dire, indipendentemente dal regolamento e dal fatto che il rigore fosse stato dato e che la Juve avesse meritato di vincere, indubbiamente, perché poi quella era una squadra anche complicata, difficile, per cui devo dire assolutamente complimenti, ma mi sembrava evidentissimo che il fallo fosse fuori. Posso dire una cosa? Dire indipendentemente dal regolamento è un po' un paradosso, nel senso che poi il regolamento è quello che conta. Che l'incrocio tra le gambe fosse fuori è anche banale dirlo, l'abbiamo accertato e ci fermiamo qui. Poi in realtà c'è anche quell'altra parte, cioè quel braccio sulla schiena di Morata che è lì, ma stiamo parlando di questioni di centimetri, di millimetri, e che se tu vai a leggere il regolamento ti dice che in realtà un fallo che finisce di concretizzarsi oltre rispetto al primo contatto va sanzionato dove si concretizza, quindi eventualmente dentro un'area di rigore. Ripeto, tra l'altro, secondo me la cosa che viene sottovalutata di tutto questo è che l'arbitro è a 30 metri perché è un contropiede, l'assistente non è nemmeno in linea perché anche lui sta correndo ed è impegnato a vedere se Morata era in fuorigioco o no, quindi secondo me poteva anche non darlo il calcio di rigore, ma che l'abbia dato in termini di regolamento non è uno scandalo, è una cosa che ci può stare, è semplicemente questo il ragionamento. Sì, sì. Prendiamo e portiamo a casa comunque. Edoardo da Milano, buongiorno. Senta, non c'entra niente col calcio. Qualcuno ha detto la città del popolo, invece è la città del lupo. Del lupo, sì, lo so. Sì. Era solo abbiamo questo, già, per il resto ancora tutto bene. E speriamo, la missione è bellissima. Cioè, tu hai chiamato per correggere il tedesco. Sì, infatti è Wolfsburg, non è Wolfsburg. Doppia. Sì, e invece speriamo che non si mangi la città del lupo, che è la fabbrica delle macchine del popolo, quindi questo diciamo per nome, c'è Volkswagen con la B di Verona, diciamo a Wolfsburg con la V doppia. Beh, però lupo popolo, anche ascoltatori a piano, per il resto ascoltatori a piano. Per il resto prego. Tutto bene. Tutto bene, per il resto, perfetti. Per il resto, grazie. Per il resto tutto bene. Comunque, tornando alla Juventus, c'è da essere soddisfatti. Hai intravisto anche il derby di Madrid, per caso, Pier? No, l'ho proprio commentato, nel senso che io ho fatto, diciamo, gli highlights, la sintesi del derby di Madrid, e quindi ogni tanto, insomma, dovendo fare la sintesi, davo un occhio anche alla Juve, ma ho visto con più attenzione Madrid di Torino, se devo essere sincero. È stata una partita strana, nel senso, è stata una partita che il Real ha dominato nella prima mezz'ora in maniera veramente incredibile, con una quantità di occasioni pazzesche, con Oblak che ha fatto tutta una serie di miracoli. Nel secondo tempo è calata un po' di energia e alla fine l'Atletico ha sperato addirittura il gol della vittoria. È uno 0-0 che lascia tutto assolutamente aperto, ma credo che Ancelotti non sia soddisfatto, perché per la prestazione che ha fatto la squadra meritava di segnare, ma magari poteva finire 1-1, ma meritava di segnare. Però la cosa positiva, insomma, della Madrid è che mi sembra in ripresa, mi sembra una squadra completamente diversa, sì, da quella del 4-0 del 7-3. Però sei sempre lì, non hai ancora battuto, questi qua non li hai mai battuti nelle ultime 7 partite. Adesso è il momento di farlo, se no vai fuori. E c'è chi scrive, come Filippo, sì, Marrareccio, che sentiamo dopo, partite, che Ancelotti potrebbe essere al Calderon quest'anno, nessun gol segnato, io faccio di maledizione per il Real Madrid. 3 sconfitte, un pareggio, 7 gol subiti, nessun gol segnato quest'anno al Calderon. Però insomma serve la grande partita al ritorno. Pier, lo saluti tu, Luca Telese? Certo. Buongiorno Telese, come stai? Buongiorno Telese. Ma è che sei così schittico? Ti ha detto lo saluti Luca Telese? Mi pare, il mio amico Telese, dai. A parte che Telese a Radio 24 ha anche un passato, no? Sì, certo. Oltre certo che un presente, probabilmente anche un futuro. Facciamo abbiamo così, rimesso tutti al centro del villaggio. Al centro del villaggio. Hai guardato la Juve? Mi chiamate, maledetti nordici, sì, perché siete così, mi chiamate per sfrugugliarmi e stormi alla berlina. Io ricevo decinaia di insulti su Twitter dai vostri ascoltatori. E allora dai, vai. Non parliamo così, della facciamo Juve. No, come no? Perché abbiamo chiamato apposta, Luca. Il gioco lo vedi? Allora ammettete, Luca risponde e io ti dico la percentuale, ti dico in tempo reale, dopo quale ti risponde la percentuale di insulti che ricevi, ok? Partiamo, vai. Vado io, era rigore o no quello per la Juventus? O è un'area troppo larga, troppo lunga, come aveva detto l'allenatore della tua squadra? Siccome non cado nella provocazione, non dirò che è stato un regaletto, diciamo, era chiaramente fuori, dai. Era chiaramente neanche. Anzi, bisogna chiedersi perché quando gioca la Juve c'è sempre questo problema delle aree che si restringono e si allargano. Questo è un problema serio, diciamo, pagatamente, serenamente. Pier? Pagatamente, serenamente è l'imitazione di Buttanti che imita Veltroni, giusto? Certo, Veltroni. Pacatamente. Per chi hai fatto il tifo ieri sera? No, devo dire, guarda, mi sono messo la mano sul petto, ho detto... Per il ranking UE, hai tifato per il ranking UE, fa anche tu. Non ci posso credere. Fare in modo di non vedere quella maglia zebrata che mi fa venire tra quegli occhi e ho tifato con lui. Ha tifato per il ranking UEFA anche Luca Telese, non c'è più religione. Per 70% di insulti. Tra l'altro abbiamo recuperato 0,333 all'Inghilterra ieri sera. Possiamo andare a festeggiare. Quindi Luca, bandiera fuori dalla redazione. Ma la capiscono questa nostra ironia? No, ma sei matto. Che quando uno come me vede la maglia zebrata... Ormai con sto ranking facciamo paura a tutti. Però puoi fare un'altra domanda, Luca. Se quel calcio di rigore l'avessero dato alla Roma, ad esempio nella partita con il Manchester City, avresti detto che in fondo il regolamento dice della partita, l'impatto che la squadra aveva portato nella partita giustificava un rigore. Hai capito? Quindi certo, esistono gli aiuti non meritati, è solo un no? episodio slegato che va giudicato separatamente, se lo meriti oppure no. Questa è una grande questione. Quindi la verità è che ci sono milioni di anti-juventini oggi, la verità è che la pensa come Crosetti, che dicono che non era rigore, ma se fosse capitato alla Roma, al Milan, all'Inter, alla seconda, no, avrebbero detto che in fondo poteva anche essere poi fischiato. Adesso facciamo salire l'insultometro. Siccome la Juve ne ha così tanti, è troppo, uno dice basta, pure questo vediamo regalare, mentre invece alle altre squadre normali, l'Inter, la Fiorentina, la Roma, Napoli regalano poco. E quindi è giusto protestare per quel rigore. Certo, certamente. Vabbè, siamo all'80%. Siamo all'80% dei consensi. Per arrivare al 100% cosa deve fare? Aspetta, vediamo, perché Pardo mi vuole demolire, è un killeraggio. Ora ti dico io cosa succede. Lo facciamo salire al 100% dopo il traffico, anche perché ho il domandone per Telese, non lo dico io, lo scrive Mimmo. Traffico. Allora, la scaletta è incomprensibile. Che cazzo dobbiamo fare? Tutti convocati. Io a questo punto che cosa faccio? Faccio sentire un altro sommario di TG. Tutti convocati. È riconosciuta questa, Luca? Chi era? Ma non lo so, un amico, scaletta incomprensibile, mo che cazzo faccio? Un amico, archivio sterminato di Radio 24. Di Radio 24. Pier, sei pronto con il risultato? Perché questa è bella, Sì, no, io volevo dirti intanto come Dilla. Si compone il 90% di tutti, perché siamo saliti nella pubblicità, l'ha lasciato fermentare. 70% sono juventini che ce l'hanno, spero di non aver sbagliato strada, altrimenti c'è il suicidio, ostacolato, no, è tutto a posto, il mio navigatore qui al mio fianco. Il 70% sono juventini che dicono che ce l'hanno votato per le cose ironia, che e il 20% sono romanisti più affini che dicono che se sarò troppo morbido, capito? Hai capito, quindi non hai accontentato nessuno. È chiaro, quello è No, ma l'ultima domanda è questa, ma sabato sera, Luca Telese, per chi tifi? Vabbè, questa è come? Facile. Che domande sono? ma qual è? Per il ranking UEFA. Juventus-Lazio? Allora, è complicata da dire, però secondo me a Lazio deve perdere. Guarda, sono proprio disposto a passare su tutto, perché lo schizzo di Bile... Di vedere queste maglie con questi aquilotti. Ma è bellissima, Luca, è bellissima quella maglia. Questo rigurgito di bassi sentimenti che arriva dalle fondamenta della capitale, dovete stare a questo. Ecco. Sei quasi rovinato. Tanto il campionato è perso, la Juve 2 punti in più e meno, non ce ne frega più niente. E quindi bisogna che almeno asfaltino pure Atalanta-Roma allo stadio, non ci va nessuno perché gli ultra non vogliono. Vediamo una sistemata, perché cioè, è pazzesca sta cosa. Un secondo posto, abbiamo passato una settimana e sembrava un'orgia, sembrava cosa, incontrai gente insospettabile, tipo sai quei film di fantascienza Underworld, che si rivelano laziali e ti dicono e ti fanno una battuta su Garzia, sulla fidanzata di Garzia, su Totti, il capitano in panchina, ma non è un'immagine bella, letteraria? Griezmann, quel Totti che esprime quel concentrato di emozione in panchina, è una cosa stupenda, ma chi ce l'ha in campo una storia così, anche in panchina e racconto? Grazie Luca, a presto. Ciao Luca. Madonna, mi avete congedato proprio Tiefa. Ciao. No, straordinario. Stai ormai utilizzando. No, ma è perché teniamo alla tua incolumità. Io leggo qualche messaggio e temo per la tua incolumità. Storica. E dai. Ciao Luca. Insultometro, Pier, siamo ai massimi. 95%, ha recuperato qualcosa dai romanisti, però credo che alto, tanta roba. Però insomma, credo che non ci siano dubbi sul fatto che i tifosi della Roma si faranno per la Juve, per ovvi razionali motivi di classifica. Insomma, la sfida è quella per il secondo posto, e poi chiaramente il resto bisogna soltanto capire se quando festeggerà la Juve, a meno che la Lazio non vinca. Allora, se la Lazio vince, a quel punto dove andrebbe a meno 9, sai, un paio di settimane almeno di pressione ci sarebbero. Per questo io credo che Allegri questa partita non la potrà gestire con la stessa leggerezza che ci sta la Parma. Sì. Diego, da Monaco o Monaco? Baviera o Francia? Allora, in realtà da Genova, perché se possono rientrare, però io spesso per lavoro sono a Monaco o a Munegu. come si fa a dire. Comunque stamattina niente, Monaco si è svegliata tranquilla, non è che ne fanno una tragedia, sì. Lo sanno che la Juventus gode anche fuori dall'Italia di certi favoretti, no, arbitrari, è noto. Ah, lo sanno, sì, signore. Hanno continuato serenamente a pagare la colazione con la carta di credito, sì. Chiaro. Sì, con l'American Express, senza problemi, anzi white and black, no, aspettando la Juve. Sì. No, volevo dire, a Monaco i monegaschi saranno 5%, poi il resto sono italiani, certo. Russi e poveri pendolari come me che fanno avanti e indietro, certo. Voglio dire. Sì, non ci sono, non c'è un problema di non è in atto una battaglia di religione. Assolutamente. Insomma, no. Adesso c'è gli internazionali di Monaco, di tennis, quindi certo. Tutto è concentrato sulla terra rossa di Monte Carlo. Che devo spiegare meno. Vabbè, ma di che stiamo parlando? Chiamami Loccaro e parliamo del tennis, no? No, non gliene può fregare di meno ai monegaschi. Allora, diciamo che rispetto ad altre situazioni, ieri giustamente si è sottolineato la protesta molto sobria dei giocatori in campo, ma è chiaro che il Monaco da questo punto è un esercito senza popolo dietro. Una bellissima squadra, ma... insomma, uno stadio piccolo, come ci diceva ieri Alor Bonnet, i tifosi sono pochissimi. Insomma, è chiaro che se fosse successa una roba del genere contro una squadra più forte dal punto di vista del supporto del pubblico, se ne sarebbe parlato di più. Ma insomma, ripeto, stiamo parlando di un episodio per me non era rigore. Ho visto scandali peggiori nella storia del calcio, non è che adesso io. No, tanto che abbiamo preso non solo Telese ma pure noi una valanga di insulti, ma ovviamente perché? Stiamo come giocando siamo stati? Ma no, ma da sai siamo da stati. tutti e due ma da tutti e due bipartisan, totalmente bipartisan, sono dei ladri. E da quelli che dicono, perché dici che non è rigore? Vabbè, ma veramente vi pagano per essere così coglioni, pazzesco, scrive Beppe da Bergamo. No, non ci pagano, lo facciamo perché poi... lo siamo e quindi esterniamo il nostro modo di essere, insomma. Estrinsechiamo. Dove va Klopp? Tu che sei nella città dei lupi? No, io sto per ora quasi a Magdeburgo, ti ricordi Magdeburgo? Forse un Magdeburgo-Torino agli anni 70. Magdeburgo-Roma. Magdeburgo-Roma, se non lo ricordo bene. Ah, Magdeburgo-Roma, secondo me anche no, Roma-Carzai-Siena. No, Magdeburgo-Torino, ha ragione Pierre. Torino. Ricordo Magdeburgo-Torino. Sì, no, Roma-Carzai-Siena ci fu il famoso 3-0-0-4. No? Sì. Abbastanza clamoroso, Magdeburgo-Torino. In quegli anni lì, ma lui ha tanti estimatori, perché al di là della stagione sicuramente di basso profilo del Dortmund tra campionato e Champions, però stiamo parlando di un allenatore un allenatore icona che pur senza aver vinto ancora tanto, avendo sfiorato una finale di Champions League col Bayern 2 anni fa, però ha già un brand di un certo tipo, quindi gli estimatori sono tantissimi. Lì il domino delle panchine comincia fra poco, fra una quindicina di giorni si scatena tutto e come spesso succede nella vita, quello lì è un meccanismo domino. Quindi sì, è come il gioco delle sedie, no? Sì, poi la musica si ferma e qualcuno rimarrà con il sedere per terra. Ciao Pierluigi, ci sentiamo domani. Ciao Pier. Giovanni, stiamo qui. Giovanni da Milano, lei stia lì, anche lei. Non riesco a leggere questa agenzia. Pubblico Ministero chiede processo per allenatore Mancini. Dopo GR chiariamo tutto. Arrivo, un attimo. Tutti convocati. Allora, adesso l'agenzia, ve la leggiamo per intero. Il Pubblico Ministero chiede il processo per allenatore per Mancini. Per fallimento della società IMG. La Procura di Roma ha chiesto rinvio a giudizio per l'allenatore dell'Inter Roberto Mancini, imprenditore Marco Mezzaroma e altre due persone, Umberto Lorenzini e Stefano Gagliardi, per tutti l'accusa di bancarotta per il fallimento per circa 2 milioni di euro della società IMG. Ve la vendo così come viene battuta. Giovanni Capuano, ne sai qualcosa? Sì, ma è una vicenda vecchia. Nota vecchia. Mancini mi risulta si sia detto assolutamente estraneo. Evidentemente i magistrati che hanno condotto le indagini la pensano diversamente e adesso decide un giudice, insomma. Aspettiamo e vi daremo nota. C'è anche chi scrive che ci era rigore, come doveva esserci anche l'espulsione del povero Carvalho. No, non doveva esserci espulsione. Questa credo sia una delle poche certezze di questa vicenda, nel senso che Morata non è in possesso di palla, tra l'altro non è nemmeno scontato che una volta atterrata la palla sia sua e non magari del portiere in uscita. Il regolamento dice che per concretizzarsi la chiara occasione da rete ci deve essere la certezza che il pallone entra in possesso dell'attaccante. In questo caso non c'è e qui la chiudiamo. Giovanni Milano, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti voi. Mi dica. Io sono un juventino. Sì. Oggi è una grandissima giornata proprio. Certo. Perché vuol dire che noi siamo ritornati a essere forti e antipatici. Perché se tutti parlano di questo rigore che, come ha detto Capuano, si può dare o non si può dare, l'arbitro in corsa, il guardaline lì che non può guardar bene, il lancio di Pirlo fantastico, Morata che si butta nello spazio. Però mi sembra che siete antipatici già da qualche mese. No, infatti, mi pare di ricordare dopo Juventus-Roma qualcosa. Perfetto, è tutto perfetto, quest'anno è perfetto, adesso dobbiamo perdere sabato con la Lazio, poi il derby, poi portare la Lazio a 3 punti e farla arrivare seconda davanti alla Roma ed il campionato vincerlo con 3 punti. Magari con un gol di fuorigioco non chiarissimo. È una goduria unica. Sarebbe il massimo. Sarebbe il massimo, ma sarebbe il massimo. L'apologia della juventinità. Bellissimo. L'apologia dell'altra metà italiana, che quello di ieri può essere dato come può non essere dato come rigore, però quello che state dicendo, non voi, ma anche chi telefona, tutti quanti, chissà come hanno rosicato ieri sera. Ma certo. Perché siamo diventati anche, ci aiutano anche in Europa. Ci hanno sempre detto, vincete l'Italia perché in Europa non vi aiutano. No, ci aiutano anche in Europa. Questo lo dice Carlo Genta. Grandissimi, siamo fenomenali. Però poi parlando di calcio, Genta, bisogna dire, grande merito ad Allegri, la squadra in Europa che riesce a fare... Per me è il risultato perfetto, la Juventus certamente poteva giocare meglio di così perché l'abbiamo vista giocare partite molto migliori di questa, però in questo momento, dopo gli sforzi fatti per il campionato e per recuperare la finale di Coppa Italia, è il momento della stagione così, insomma, io l'ho detto ieri, per me l'1-0 sarebbe risultato perfetto e continuo a pensarlo dopo che l'1-0 si è concretizzato e aggiungo che non riesco a vedere il Monaco che vince con 2 gol di scarto sulla Juve, in tutta onestà. Cioè, la squadra di sera, una buona squadra. È difficile da ipotizzare, poi adesso non corriamo perché in realtà tutte le partite sono aperte e si rischia eventualmente di svegliarsi tra una settimana a commentare qualcosa di sorprendente. Però è evidente che la Juve, che entrava in questa doppia sfida già avvantaggiata dal pronostico, che aveva pescato il meglio e ha giocato senza Pogba, con mezzo Pirlo, con Tevez che tra l'altro ieri sera non è stato il miglior Tevez della stagione, quasi il peggiore, e mi sembra che abbia fatto un passo ulteriore verso la qualificazione. Poi dopo vedremo, perché a me ad esempio non è nemmeno piaciuto tantissimo il Real Madrid di ieri sera, poi magari ne parliamo con Filippo. Sì. Cioè, il Real ha fatto una bella partita, meritava di vincere. E poi per il 7° derby consecutivo non ha battuto l'Atletico Madrid. Ora, noi tutti diamo per scontato che fra una settimana al Bernabeu il Real vince e va in semifinale. Però, ripeto, dovrebbe fare qualcosa che nelle ultime 7 partite non gli è riuscita. E se vogliamo non gli era riuscita nemmeno a Lisbona, dove nei 90 era finita 1-1 per quella capocciata al minuto numero 93. Certo. Allora, facciamo così, parliamone con Filippo dopo aver ascoltato Ancelotti e Simeone. Olé! Abbiamo meritato di più, soprattutto il primo tempo, abbiamo avuto opportunità per far gol giocando molto bene, però non siamo riusciti e il secondo tempo è stato un po' più, diciamo, combattuto, con meno controllo da parte nostra, più pressione da parte dell'Atletico, però abbiamo la possibilità di segnare in casa. Bueno, seguramente loro partono con il vantaggio di giocare con la sua gente e noi con la tranquillità di andare a giocare la nostra partita come normalmente la facciamo. Vediamo quando si arriva mercoledì prossimo cosa succederà, però seguramente sarà una bella gara. Ciao Filippo Maria Ricci. Che grande il Ciolo che parla in italiano, bello, sì, bello, con questo accento argentino, bellissimo. Chi passa? Beh, passa al Real Madrid, però ha buttato via un'occasione ieri, perché adesso questo è il peggior Atletico Madrid di tutti quelli affrontati dal Real Madrid senza riuscire a battere. Sì. Perché questo non è un bel Atletico e Simeone lo sa. Io avevo pronosticato un 0-0 esattamente per questo, perché andava molto bene a Simeone e il Real Madrid ha fatto la partita, però come anche al Camp Nou era partito molto bene. E poi però ha perso al Camp Nou e ieri è finita 0-0 contro questo Atletico. Il Real Madrid doveva segnare, doveva far gol, perché la partita al ritorno sarebbe stata diversa. Continuo a dire che passa il Madrid, però se l'Atletico fa un gol su calcio, diciamo palla ferma, lo può fare su calcio d'angolo, e dopo le cose si complicano. Quante volte in questi due anni di derby l'Atletico non ha segnato al Bernabeu? Io non ho questa statistica, però mi sembra abbia segnato. Noi continuiamo a dare per scontato che Real Madrid venga traghettato in semifinale. Invece ha detto benissimo Filippo. È favorito, per carità, hai perfettamente ragione, compreso il fatto che ieri si è vista una differenza tra le due squadre. Però se questo era come era, ma tu l'hai raccontato anche in anticipo, l'hai scritto, il risultato preferito di Simeone, io fossi in Ancelotti sarei arrabbiatissimo oggi. Sì, perché questo è il risultato dell'anno scorso, no? Per poi andare a Stamford Bridge, no? E però poi cosa è successo a Stamford Bridge? Che l'Atletico ha vinto, attenzione, dopo lo 0-0 in casa. E poi un'altra cosa, Ancelotti ha fatto 12 derby, ne ha vinti 3, che già sono pochi, e uno, mi è piaciuto quello che hai detto tu, al 90esimo è finito 1-1 quello di Lisbona, quindi teoricamente le vittorie al 90esimo sono due, e sono le due in Coppa del Re, che era la competizione che meno interessava all'Atletico Madrid l'anno scorso, e il resto non ha mai vinto. Insomma, la situazione non è... E poi, vabbè, io oggi ho scritto, bellissimo, ieri gli hanno messo pressione Ancelotti appena prima della partita, è uscito quel pezzo su Marca, no? Praticamente che veniva una velina presidenziale catapultata sul sito di Marca, in cui si diceva occhio che ti giochi molto più dei quarti. E siccome è vero, tu hai scritto che se dovesse per disgrazia Carletto finire fuori, ci potrebbe essere la follia di un esonero. Sì, ovviamente non a metà campionato, cioè non adesso, insomma, sarebbe a fine campionato, però ci siamo, insomma, cioè quel messaggio ieri era chiarissimo, un messaggio presidenziale. Il problema è che questa squadra qua è schiava del galatticismo, è schiava del suo presidente. Questi giocano con sei fenomeni, perché sono sei fenomeni, manca un uomo di raccordo, manca uno che recupera la palla. Cioè, veramente a me fa ridere, io continuo a paragonare Cross, no, il Makelele bianco. Ma questi giocano con tre mezze punte e tre attaccanti. Ieri Bale si è segnato un po', è tornato, ma insomma è molto difficile vincere una Champions con una squadra tanto poco equilibrata, e Carlo lo sa, però non c'è modo di cambiarli, non c'è in rosa, avrebbero che dire Chiaramente Luca Silva, che però non sono paragonabili alla qualità degli altri, non possono giocare. Sono lì alla fine, ieri sera gli ultimi 10 minuti erano un po' appesi a sta partita, insomma, perché gli manca il Xabi Alonso, insomma, per me la vedo, è comunque complicata per il Real Madrid. Ha ragione l'Atletico a dire che non si può mandare un arbitro serbo, la partita con Real, questa è carina, no, perché noi siamo nel pomeriggio degli arbitri, perché, tanto per cambiare, perché poi litiga con Mandzukic, forse doveva dire per quello, dice, non vogliamo un arbitro serbo perché poi litiga con Mandzukic, sarebbe stata una battuta divertente, però no, lui voleva dire non è un campionato di qualità. In realtà a me l'arbitro ieri è piaciuto abbastanza, insomma, ha fatto il suo, si è perso il cazzottone di Carvajal a Mandzukic, però insomma per il resto non ha arbitrato male, la partita era abbastanza tesa, e non ha ammonito troppo, pare non si sia perso il morso, perché oggi Mandzukic ha fatto un tweet dicendo che Carvajal non l'ha morsicato, però meno male, anch'io ho fatto un tweet con delle immagini, insomma, che sì, il dubbio viene, il dubbio viene, insomma, un po'. E poi oggi su una televisione spagnola è uscita una foto del braccio di Mandzukic con un segno abbastanza evidente. Comunque, ma lui non ha detto nulla, però. No, ha detto avanti. No, ha detto il contrario. È stato il morso. Esatto, quindi va bene così, però le immagini, insomma, sì, lasciano pochi dubbi. Raccontano un'altra storia, però vabbè, insomma, va bene così, insomma, finale. Però ecco, c'erano 8 difilati, poteva essere un'ecatombe per il ritorno. Per me l'arbitro è stato abbastanza bravo, insomma, migliore di quello di Torino, diciamo, mettiamo così. Sì, che veniva, che veniva da un altro cieca, campionato, cioè, un poco allenato. Da un campionato, cioè, non esattamente dall'NBA, insomma. Lo so, cioè, è la UEFA, bisogna dare data a mangiare a tutti, e lo sai com'è, no? Quindi, anzi, cioè, io mi ho detto, sono abituato all'Africa dove mandano l'arbitro delle Seychelles, ragazzi. Beh, pure ai mondiali, sai, per quello, caro. Esatto, il premio arriva fino ai mondiali. Chiaro, per cui insomma, tra la Serbia e le Seychelles, meglio la Serbia, dai. Beh, qualcosa meglio. Un'ultima cosa, potrebbe piacere Klopp a Real Madrid? Visto che oggi ha annunciato il divorzio dal Borussia Dortmund, tra l'altro dopo aver appena rinchiostrato il contratto fino al 2018, quindi abbastanza c'è un momento di confusione, no, del Borussia Dortmund. Sì, un po' di Klopp anche, magari. Dunque sicuramente è un'idea, anche se lì c'è una battuta spettacolare di Florentino Perez che disse un po' in camera carità, visto ormai di dominio pubblico, parlavamo di Klopp e lui dice no, è un allenatore per bambini. La definizione di Florentino Perez è un entrenador para niños. Ma sì, perché? Perché le sue caratteristiche, perché è un po' pittoresco. Sì, poi questi Borussia Dortmund erano tutti ragazzini sconosciuti, cioè qua noi ci abbiamo i ragazzini sconosciuti che al Real li ha messi sotto, esatto. Saranno anche stati ragazzini. Esatto. E a questi di Ancelotti quasi, mancava poco, l'anno scorso il primo tempo lì a Dortmund è uno degli incubi peggiori per il povero Carlo. No, secondo me se Ancelotti va via devono fare un giro sulla giostra francese di Tutu, per me dura poco, il gettone dura poco, però sarebbe la scelta naturale, insomma, tutto diciamo sì, il terreno è preparato per questo. Io vedo Klopp magari più verso questa affollatissima panchina del Manchester City, dove no, tra Benitez, Ancelotti e appunto Klopp lì possono prendere Benitez per 6 mesi per fare il traghettatore che aspetta Klopp che aspetta Guardiola, perché poi il punto di caduta, esatto, di tutti sì, è Guardiola l'anno prossimo. Caronte, il Bayern di Caronte, cioè ci sarà anche il Paris Saint-Germain libero, perché panchina creativa. Sì. Blanc non lo sopporta più nessuno, forse nemmeno la sua signora. Lo Sheiko per primo, sì. Lo Sheiko per primo, per secondo, l'impressione. No, piuttosto non sarà Allegri l'allenatore del Real Madrid né ora né mai, perché hai sentito cosa detto ieri, no? Te lo faccio sentire. Volete divertirvi? Senti. Innanzitutto chi vuole divertirsi, ci sono gli spettacoli al circo e può andare tranquillamente al circo. Io, cioè, non è che vado in panchina per divertirmi. Noi abbiamo l'obiettivo di passare il turno e cercare di arrivare in semifinale. Ecco perché non andrà mai a Real Madrid, ha firmato la sua condanna a morte. Spagnola, in nessuna squadra spagnola. Sì, sì, il tiki-taka bisogna farlo, per poi bisogna far divertire la gente. E posso dire una cosa, questa parte di scherzi, io ormai, vabbè, ormai sono contaminato, troppi anni che sto qua, però hanno ragione qua, bisogna divertirsi. Cioè, e lo so, in Italia siamo troppo legati ai risultati. È chiaro che sta Juve, c'ha fame, è una vita che non va in finale, c'ha ragione, lo capisco Allegri, e mi piace il suo accento livornese, mi piace quasi come quello italiano del Ciolo, però c'è anche divertirsi, bisognerebbe cercare di unire le due cose, perché insomma il calcio alla fine è questo, secondo me. Poi dopo, se non si può avere tutto, va bene, prendiamo il risultato, però se si provasse non farebbe una brutta cosa. Ciao Phil, grazie. A voi, ciao Filippo. Ciao. Come vedi, Giovanni, il Barça questa sera con un Paris Saint-Germain dimezzato? Ecco, intanto diciamo che è mezzo Paris Saint-Germain, perché Verratti e Ibrahimovic sono due assenze pesanti, e quindi questo avrà sicuramente un peso. Io non sono così sicuro che questa sia una sfida con pronostico chiuso a favore del Barcellona, in assoluto. Barcellona può nel senso che secondo me il Paris Saint-Germain a Londra ha dato dimostrazione di essere una squadra che ha fatto un ulteriore passo, un'ulteriore crescita a livello europeo. Tutti non sopportano Blanc, però sia chiaro che lui è legato ai risultati. Dovesse fare, come l'anno scorso, meglio dell'anno prima in Europa, confermando lo scudetto, insomma la vittoria nella Ligue 1, poi magari gli sceicchi sono anche costretti a tenerselo. E poi bisogna sapere cosa ne pensa l'imperatore. Sì, tutti. No, e questo per dire che, insomma, a me sembra che il Barcellona sia una squadra forte, fortissima, con davanti quei tre che sono qualcosa che probabilmente nessuno ha, nemmeno il Real Madrid in questo momento. E però in questa stagione si è dimostrata anche spesso incostante. Adesso sta facendo una striscia di risultati. Attenzione però, perché è un ostacolo importante e serio. Credo anche questa è una partita che non finisce finisce stasera. Io, infischiandomi dal ranking UEFA, che non so cosa dica, tifo Paris Saint-Germain. Sì, ma tanto la Francia non c'entra più nulla con noi nel ranking UEFA, quindi puoi serenamente tifare, tu devi tifare contro gli inglesi. Che non ci sono, non ci sono, poveretti. E quindi fino a all'anno prossimo, ai preliminari di agosto, posso fare quello che voglio. Puoi fare quello che vuoi. Anche Rosolino da Fermo, buongiorno. Ah, sì, eccomi. Grande tifoso del ranking UEFA. Grande tifoso del ranking. Come? Ti fa ranking UEFA o ti fa le italiane in coppa o si diverte di più a gufeggiare qua e là? Io di solito ascolto chi non condivido. Sì. Io non condivido la vostra radio, sul piano politico parlo, eh. Ah. Come non condivido naturalmente la zanzara di quei due Mattarelli che alla sera insomma fanno questa trasmissione, però vi sento. Adesso, siccome io di calcio sono una persona che me ne intendo anche molto, direi, senza peccare di niente, di presunzione. Quindi? Però sento voi e allora ho voluto intervenire. Sì. Il calcio a livello mondiale, che voi vi spremete, è in decadenza. Ma non avete visto gli ultimi campionati mondiali? Lì c'è l'espressione maggiore del gioco del calcio, no? Sono i giocatori migliori del gioco del calcio. E che cosa avete visto? Che cosa abbiamo visto? Scusa, voi forse avete visto tanto, io ho visto molto poco. Sì. Perché non ci sono più giocatori di classe vera. Il gioco del calcio è tutt'altra cosa, non è come quando è stato inventato, voi non lo sapete, io non ve lo dico, io lo so dove è stato inventato il gioco del calcio, però non ve lo dico, non è che voglio peccare di niente. No, va bene, Rosolino, ci stai rattristando. Però ci sono allenatori, noi abbiamo allenatori in Italia che di calcio ne capiscono molto poco. Non spendete una parola, per esempio, per quanto riguarda i preparatori. Quelli sono veramente quelli che danno o non danno. Preparatori atletici. Certo, ma gli allenatori sanno fare le interviste, ormai dicono sempre le stesse cose, fanno i gestori. No, ma io contesto la premessa che però i mondiali siano l'espressione massima del gioco del calcio, secondo me è il calcio di club l'espressione massima. Ma se poi diciamo che uno come Messi sia scarso, Messi, Cristiano Ronaldo, Ibrahimovic, se questi sono scarsi, vabbè, ce li teniamo volentieri. Claudio Ascoli, ci sentiamo domani, l'aspetto. Grazie Giovanni. Grazie a te. Grazie Giovanni Capuano, alla prossima. Filippo Oreggi in regia, Daniele Buonamici, dov'è Alessandro Marco Tulli? Non c'è più, comunque in redazione. Ciao a tutti.